Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, buon lunedì e buon inizio di settimana. Ritorna Nessun luogo lontano, ma la squadra è sempre la stessa: Amir Lucchetti e Massimo Brugnoni in redazione. Quest'oggi però c'è Fabio Cantadori a dare musica e ritmo. Le coordinate ve le ricordo, ci potete raggiungere con domande, suggerimenti e commenti alla mail nessunluogo@radio24.it, via SMS, quindi condensati in 160 caratteri al 349-238-6666. Poi siamo su Facebook Nessun luogo lontano trattino Radio 24 e su Twitter Nessun luogo 24. Allora, lo avete sentito anche dal GR, partiamo dall'Egitto e andiamo proprio al confine tra Israele, Gaza e il paese dei faraoni. At least 16 Egyptian military personnel were killed as they sat down to break their fast at a border point in Sinai, a few kilometers away from the Rafah crossing with the Gaza Strip. افطار في شهر رمضان هؤلاء الشهداء لن تضيع دماؤهم هدرا. E la voce che sentite è del presidente egiziano Morsi, che promette risposta pronta e pugno di ferro. Ma è certo che la sicurezza nella penisola del Sinai è una delle tante sfide che il suo nuovo governo dovrà affrontare. Proviamo a ricapitolare i fatti per come possono essere ricostruiti fino ad adesso. Ieri, alla fine del digiuno, del Ramadan, quindi l'iftar, quando i musulmani consumano il loro pasto serale, un gruppo di una decina di uomini, si dice pesantemente armati, hanno ucciso 15 soldati egiziani in un avamposto di confine vicino al valico di Kerem Shalom. E sono riusciti a rubare, dopo aver fatto 15 morti, due veicoli blindati. Si sono messi dentro i veicoli e sono partiti a razzo verso il territorio israeliano. E lì l'aviazione della serie di David non ha perdonato. Il primo è stato fatto saltare appunto da un caccia, il secondo è esploso. Ancora non è chiaro se si sia fatto esplodere o sia stato volutamente in quel punto, sia stato un errore di chi era a bordo ed era carico di esplosivo. Tutto questo mentre dalla striscia di Gaza, poche ore prima, sono avvenuti nuovi bombardamenti. Insomma, quella striscia di terra, quel triangolo così vitale, così sensibile, si è reso incandescente nelle ultime ore. Allora abbiamo raggiunto pochi minuti fa Avital Leibovic, che è portavoce delle forze di difesa israeliane, che ci ha dato maggiori dettagli sull'operazione. There were five terrorists altogether. One was driving the truck that they took from the Egyptian base. Abbiamo trovato cinque corpi in territorio israeliano appartenenti ai cinque terroristi. Uno di questi era la guida del camion rubato alla base egiziana, gli altri quattro stavano armando il veicolo. Il guidatore si è fatto esplodere con una grossa quantità di esplosivo, mentre i complici sono stati uccisi con un nostro attacco aereo. Probabilmente l'obiettivo dei cinque era di farsi esplodere vicino all'avamposto militare israeliano, poco lontano dal confine, e uccidere alcuni soldati, oppure fare degli ostaggi, o ancora introdursi in una delle abitazioni della zona e fare vittime tra i civili. In quell'area vivono infatti circa 10.000 israeliani. Sul posto abbiamo trovato armi, proiettili, caricatori, cinture esplosive e giubbotti antiproiettile. Senza entrare in questioni politiche e di relazioni internazionali, posso dire che la situazione nell'area del Sinai è peggiorata già da tempo. Lo scorso agosto un altro comando di terroristi provenienti proprio da lì passò il confine e aprì il fuoco contro un autobus che transitava in quella zona, uccidendo alcuni israeliani. Sappiamo bene quindi che ci sono cellule terroristiche, sia organizzate che indipendenti, che pianificano attacchi contro Israele. Attualmente non siamo ancora riusciti ad identificarli esattamente, non sappiamo ancora a chi sono affiliati. Tre giorni fa però abbiamo diramato un comunicato per invitare la popolazione di Israele a non recarsi nel Sinai per le vacanze, perché la loro vita può essere a rischio in quella zona. Questa è la situazione nel Sinai e al confine con la striscia di Gaza e con Israele, ma noi quest'oggi rimaniamo proprio in Egitto, perché il neo governo di Morsi e del premier Ishmael Kandil ha tanto lavoro da fare. Sono tante le sfide da affrontare, non solo la questione sicurezza in Sinai, c'è un'economia egiziana che arranca e che va risollevata. perché la rivoluzione ha in alcuni casi paralizzato alcuni settori, primo fra tutti il turismo. Cerchiamo di fare il punto e di analizzare la nuova compagine governativa. Lo facciamo col professor Massimo Campanini, docente di storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Professor Campanini, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, professore, la prima domanda che le farei è questa, poi passiamo ad analizzare la composizione della compagine governativa. Qual è la sfida principe per l'Egitto oggi? Ma la sfida principe è sicuramente il rinnovamento del paese, che può assumere diversi aspetti. Il rinnovamento politico, che è ancora in fase in corso, è ancora un processo totalmente aperto dopo la rivoluzione del febbraio del 2011, e il processo economico. I due elementi sono strettamente legati, perché evidentemente non ci può essere una crescita economica senza un governo saldo, e il problema è proprio quello di capire se il governo che è stato nominato recentemente da Morsi avrà gli strumenti e le capacità di affrontare le grandi sfide della ricostruzione del paese. Molto è caduto, molto è crollato, ma molto rimane in piedi, e quindi le sfide da affrontare sono molte e enormi. Allora, le sfide del nuovo Egitto, del nuovo governo, tra possibili derive islamiste, tra la paura dei copti che sono stati in qualche modo emarginati dalla nuova compagine governativa e un'economia che fa acqua da tutte le parti. Se avete domande, gentili ascoltatori, per il nostro ospite, 349-238-6666 oppure su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. Allora, professore, iniziamo a analizzare appunto questa nuova compagine governativa. 35 ministeri, 5 ministri sono riconducibili chiaramente ai Fratelli Musulmani. Alcuni di questi, alcuni ministri sono elementi del vecchio consiglio transitorio dei militari, e un solo ministro, quello della ricerca scientifica, che viene affidato ai cristiani copti. Un giudizio globale su questa composizione? Ma indubbiamente la composizione poteva essere pensata in maniera diversa e realizzata in maniera diversa. Un giudizio globale potrebbe puntare sul fatto che si tratta di un governo conservatore, cioè di un governo che non rompe decisamente col passato, di un governo che implica una certa continuità nelle scelte. Potremmo dire in maniera un po' provocatoria che la montagna della rivoluzione ha partorito il topolino del governo Kandil, perché indubbiamente quelle che erano le aspettative, le premesse, delle trasformazioni rivoluzionarie, delle rivolte che erano successe in Egitto nel 2011, che erano proseguite con varie manifestazioni anche nel 2012 con le elezioni politiche, le elezioni presidenziali, eccetera, ci si aspettava indubbiamente una maggiore incisività dal punto di vista del processo politico, in modo da poter cambiare effettivamente la situazione del paese. Questo non sembra essere il caso nei confronti del governo Kandil, in cui appunto, come ha detto lei, esistono numerosi esponenti del regime militare, tra cui il maresciallo Tantawi alla difesa, che implicano una sorta di continuità con il regime che aveva preso il posto di quello di Mubarak dopo la caduta del Rais, e con un ruolo tutto sommato minore riservato agli stessi islamisti. Perché è vero, come dice lei, che esiste un solo ministro copto, ma è anche vero che gli islamisti non monopolizzano il governo, e questo potrebbe essere indice di una duplice possibilità: o da una parte il fatto che gli islamisti non vogliono premere eccessivamente sull'acceleratore in tema di poter rischiare dei grossi conflitti, dei grossi contrasti all'interno della compagine sociale egiziana, oppure il fatto che gli islamisti sono sottoposti dai militari in primo luogo a delle pressioni, a dei ricatti, potremmo anche dire in qualche modo, che ne frenano la capacità costituente. Quindi bisognerà anche vedere poi quali saranno nei punti dal punto di vista pratico le scelte operative del Ministero Candil per capire esattamente quale di queste ipotesi è quella più verosimile. Ecco, fra i partiti islamisti chi ha davvero il mal di pancia in Egitto in questo momento è Al-Nur, è il partito dei salafiti, che dopo aver raggiunto un 25% alle ultime votazioni praticamente non è stato estromesso perché si è chiamato fuori in realtà, poi perché insomma ha detto beh non ci assegnate ministeri a questo punto, questo governo insomma noi non sappiamo a che titolo entrarvi, e quindi in realtà diciamo se la paura era una deriva islamista, forse da questo punto di vista, perché ricordiamo i salafiti sono certamente più intransigenti dei fratelli musulmani, ecco da questo punto di vista la paura è stata fugata. Ma indubbiamente, come dice lei, i salafiti da una parte sono più intransigenti dei fratelli musulmani, e questo è preoccupante perché per quanto riguarda l'evoluzione e lo sviluppo dei diritti umani, delle libertà personali e individuali in Egitto, un'eventuale presenza salafita può essere indubbiamente preoccupante, ma il fatto che non siano entrati nel governo Candil, che comunque è un governo Morsi, diciamo la verità, perché il presidente in Egitto tiene le redini dell'esecutivo del paese, significa che tra fratelli musulmani e salafiti vi sono delle profonde differenze, probabilmente sia sul piano strategico che sul piano tattico. Per esempio, un grande assente del dibattito interislamista di questi periodi in Egitto, ma anche in altri paesi arabi toccati dalla rivoluzione come la Tunisia, è l'idea di Stato islamico. Ecco, fra l'altro, professore, la interrompo proprio perché è arrivato un sms, fra i tanti che sono arrivati, 349-238-6666, ci chiede un ascoltatore, l'esercito egiziano è laico come quello turco? L'esercito egiziano è laico come quello turco, sicuramente sì, nel senso che la tradizione dell'esercito fin dall'epoca di Nasser è stata quella di assumere delle posizioni di tipo secolare e di difendere ideologie di tipo secolarista. L'esercito non è mai stato contaminato, diciamo così, dall'ideologia islamista, anche se Sadat, che proveniva dall'esercito, si faceva passare come presidente credente. Sì. Quindi indubbiamente l'esercito ha una funzione laica all'interno del quadro politico egiziano. Il nuovo governo egiziano, gentili ascoltatori, di questo stiamo parlando, questo stiamo analizzando nella puntata di oggi di Nessun Luogo è Lontano, mentre le agenzie stanno battendo la notizia che il presidente egiziano Morsi ha decretato lutto nazionale di 3 giorni per l'attacco alla frontiera del Sinai. I martiri e i feriti, dice Morsi, saranno onorati come quelli della rivoluzione. Una rivoluzione che dal febbraio scorso ha dato certamente alcuni frutti, ma forse le anime più liberali, quelle di Piazza Tahrir, insomma, questo governo magari non se l'aspettavano esattamente composto in questo modo. Stiamo cercando di capirne di più col professor Massimo Campanini, docente di storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Professor Campanini, volevo aprire un capitolo cristiani copti, una minoranza in Egitto, però insomma un 10-12% più o meno della popolazione, quindi numericamente piuttosto corposa. Abbiamo raggiunto il vescovo copto Damian da Hannover, al quale abbiamo chiesto un commento sulla decisione di assegnare un solo ministero appunto ai cristiani copti. I think this is very unfair because the percentage of the Copts in Egypt more than 20%. Penso che sia una decisione molto ingiusta perché la comunità copta in Egitto rappresenta più del 20% della popolazione. Quindi un solo ministro copto su 25 è davvero pochissimo. E il presidente ha promesso ufficialmente che sceglierà una donna della chiesa copta come secondo membro del governo, ma ancora non è successo. Non ci fidiamo di lui, non mette in pratica quello che promette. Siamo scioccati da questo atteggiamento e siamo convinti che ci sia un piano per islamizzare l'Egitto in modo massiccio. I nostri fedeli egiziani stanno soffrendo in Egitto. Sembra che sia una strategia per farci lasciare il paese. Il primo obiettivo della rivoluzione egiziana era la lotta alla povertà, all'analfabetismo e alle malattie. Ora mi sembra che si tratti solo di una lotta ai cristiani. Non si capisce quale sia il progetto di questa rivoluzione. La situazione economica è disastrosa e l'argomento principale è il rapporto tra Islam e cristianesimo. Le due religioni non sono mai state in contrasto in questo paese e la comunità copta ha sempre dimostrato lealtà nei confronti del governo. Nonostante si dica che le frange islamiche più estremiste, ovvero i salafiti, non siano stati inclusi nel governo, non ne sono così sicuro. Il salafismo è un'ideologia ed è molto presente in Egitto in questo momento. Non bisogna credere alle proprie orecchie, ma ai propri occhi. E quindi questo è il commento molto duro da Hannover, dalla Germania, del vescovo Damian. Professor Campanini, come commentare questa paura, questo timore, mi sembra molto acceso, molto forte, da parte del vescovo? Sì, guardi, io credo che i problemi di convivenza in Egitto tra copti e musulmani non sia un problema di carattere religioso. Il vescovo insiste naturalmente, a parte il fatto di dire che i cristiani sono oltre il 20%, mentre i musulmani dicono che sono solo il 10%, a parte il fatto di tirare la coperta da una parte o dall'altra per legittimare l'una o l'altra versione dei fatti. Io credo che esistano dei problemi di carattere sociale, di carattere politico molto più rilevanti dei problemi di tipo religioso. Bisogna poi ricordare altre cose, secondo me, almeno due. Da una parte, che anche se è evidente ci sono stati delle aggressioni musulmane contro i copti, non è che i copti siano dei santarellini, voglio dire, nel senso che la comunità cristiana ha assunto, soprattutto col appena morto Papa Shenouda III, degli atteggiamenti di contrasto, degli atteggiamenti di opposizione nei confronti dell'Islam. Quindi da questo punto di vista le provocazioni sono state reciproche. Sì. D'altra parte, anche quando ci sono stati degli attentati come quello del 1° gennaio del 2011 nella chiesa di Alessandria, in cui sono morti un certo numero di copti, poi è emerso che con tutta probabilità l'attentato era stato organizzato dai servizi segreti di Mubarak. Quindi esistono anche delle strategie della tensione, per così dire, che mirano a opporre le due componenti fondamentali della società egiziana per tenere la società in scacco. Sì. E quindi, tenendo la società in scacco, per avere anche l'opportunità, la scusa, il pretesto per poter intervenire magari con la forza a risolvere dei problemi che possono emergere nel corso dei fatti. Ecco, professor Campanini, questa sua analisi mi richiama alla mente un gravissimo episodio di cronaca, febbraio di quest'anno a Port Said. نتقابل برسول الله يمسك ايدنا ويطمنا وياه ياه لو مت شهيد فعلا هبقى سعيد. 78 ultras, tifosi della squadra El Ahly, una delle più blasonate, la principale del Cairo ed Egitto, durante scontri allo stadio di Port Said. El Ahly si scontrava contro El Masri. Una totale assenza dei controlli della polizia e un'infiltrazione evidente da parte di gang criminali permise appunto questo massacro. E allora la lettura fu, insomma, questo massacro è stato permesso perché? Per permettere alla fine alla giunta militare di continuare a far scorazzare i carri armati al Cairo, a Port Said, a tenere i fucili ben in vista. Insomma, la strategia della tensione e del terrore funziona sempre, professore. Non è un paragone troppo azzardato il mio? Probabilmente no, è probabile che questo tipo di strategia venisse considerata remunerativa da parte del regime che, in difetto di legittimità, in difetto di possibilità di controllare effettivamente quelle che sarebbero poi state le proteste popolari, tendeva a mantenere tesa la situazione interna in Egitto per un divide et impera che avrebbe consentito poi ai militari di esercitare in maniera più diretta il loro controllo sul paese. Quindi da questo punto di vista l'ipotesi non è azzardata. Certo si tratta di ipotesi evidentemente, però certe volte anche a pensar male si indovina. Professore, la invito a stare sempre con noi e ascoltiamo insieme ancora un altro intervento del vescovo Damian, perché partendo appunto dall'aggressione contro i copti, lui fa un paragone, insomma parla del vecchio governo Mubarak. There is a wave of hate and aggression against the copts. A definite wave of aggression and hate. Si sta verificando un'ondata di odio e aggressioni contro i copti, non solo da parte del governo, ma anche da parte della popolazione. Gli egiziani sono saturi di idee contro di noi. Non pensiamo sia più possibile la convivenza in Egitto in queste condizioni. Molti dei nostri fedeli stanno ormai cercando di uscire dal paese, alcune volte perché costretti, altre perché è la situazione. Anche se per legge, durante il vecchio regime di Mubarak, non avevamo gli stessi diritti dei musulmani, però potevamo almeno averne alcuni attraverso l'intercezione personale del presidente. Anche perché c'era più controllo sui fratelli musulmani, per cui il paese era più stabile e i copti godevano di una maggior protezione. Ora il presidente si rifiuta di ricevere i nostri rappresentanti che si stanno lamentando delle condizioni in cui versa la nostra comunità. Questo non vuol dire che non soffrissimo anche durante il regime di Mubarak, ma ora la situazione sembra essere peggiore. Oggi ci sentiamo seriamente odiati e minacciati. La nostra vita in Egitto sta diventando insopportabile e non capiamo perché. I governi che si sono succeduti negli anni prima di questo sono sempre stati musulmani, per cui il problema dell'Egitto non è certo costituito dai cristiani. E allora, come ogni tanto si dice, vale anche in geopolitica, si stava meglio quando si stava peggio. Telegrafico su questo, professor Campanini, se è possibile essere telegrafici. Ma io ripeto, secondo me le proteste dei copti sono esagerate. Se lei va al Cairo, il Cairo è piena di chiese a fianco delle moschee. È chiaro che ci sono in corso delle tensioni, però anche queste tensioni non devono essere esagerate per tirare l'attenzione dalla propria parte. Io penso che, come ho detto prima, i motivi della rivalità tra musulmani e copti non siano motivi religiosi, ma motivi di ordine economico e politico. E da questo punto di vista ci potrebbe essere motivo e possibilità di intendersi senza, come dice il vescovo, scappare dal paese. Ecco, professore, invece un altro ascoltatore via Facebook le domanda se c'è la possibilità, quindi anche il rischio per la pace nel Medio Oriente, di un avvicinamento tra Egitto e Iran. Guardi, io penso da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista no. Sì, nel senso che evidentemente un governo tendenzialmente islamista ha tutti gli interessi e tutta l'opportunità di avere con l'Iran dei rapporti più cordiali rispetto a quelli che erano stati di Mubarak precedentemente. Però d'altra parte bisogna considerare che l'islamismo egiziano, più o meno pragmatico, è un islamismo sunnita, mentre in Iran c'è al potere una gerarchia clericale sciita. Di conseguenza non solo c'è una differenza di tipo teologico, ma c'è una differenza anche dal punto di vista strategico. Del resto gli interessi geopolitici dell'Egitto e dell'Iran possono essere temporaneamente convergenti e divergenti. Convergenti per quanto riguarda la possibilità di creare un fronte e un ponte di consolidamento dell'islamismo, divergenti perché naturalmente gli interessi dell'Egitto, che è un paese arabo, sono diversi dagli interessi dell'Iran, che è un paese persiano, appunto, indoeuropeo, che ha tutt'altra tendenza e profondità strategica nell'ambito del Medio Oriente. Quindi è una questione molto delicata, sì. Ma non penso comunque che l'Egitto sia disponibile a un'alleanza con l'Iran come era quella di Assad, per esempio, di Hafez e Assad, di Bashar al-Assad, sì. il regime di Teheran. Professore, una generale considerazione, anche se il traffico sta incombendo. Dopo la primavera araba, bene o male, il popolo arabo, il popolo maghrebino, quando va a votare, vota partiti islamisti. Forse c'è stata una compressione negli ultimi 10 anni, ma alla fine, insomma, volenti o nolenti, queste popolazioni votano per partiti islamisti, benché l'Occidente, insomma, abbia paura, però è un dato di fatto con cui confrontarsi, inevitabile. Ma ci sono diverse motivazioni che giustificano questa scelta. Ci sono delle motivazioni di profondità storica che fanno riferimento al fallimento delle ideologie secolariste e laiche che avevano dominato nel Medio Oriente e nel Nord Africa fino negli anni 70, e faccio riferimento soprattutto a Nasser e alla tradizione del nazionalismo arabo e del secolarismo socialista di stampo nasseriano, caduto il quale, fallito il quale, c'è stato inevitabilmente un ritorno e una riapertura dell'Islam. Dall'altra parte bisogna rendersi conto del fatto che l'Islam costituisce il motivo fondamentale di identità etnica e sociale dei popoli musulmani del Medio Oriente e del Nord Africa. Di conseguenza, nel momento in cui non si trovano altre alternative, e certamente anche qui per profondità storica, la democrazia occidentale può essere con molta difficoltà considerata un'alternativa, si trova quasi inevitabile il fatto di rivolgersi all'Islam e alle sue soluzioni. Le sfide e i nemici del nuovo governo in Egitto, ne stiamo parlando col professor Massimo Campanini, docente di storia nei paesi islamici all'Università di Trento. Abbiamo analizzato la compagine governativa, abbiamo capito quali sono le istanze, ad esempio dei copti, quale quelle dei salafiti, dei fratelli musulmani, un governo fondamentalmente tecnico in cui ci sono state tante riconferme anche della vecchia giunta militare, primo fra tutti Hussein Tantawi, che è stato riconfermato alla difesa. Ai copti è andato un ministero poco più che simbolico, perché è quello della ricerca scientifica. Professor Campanini, telegrafico e in chiusura, poi la lasciamo al suo lavoro, le chiedo di fare una previsione sulla tenuta politica e sul supporto popolare di questo governo, perché non dimentichiamoci che l'Egitto viene da mesi di rivoluzione che hanno cambiato la sua storia. Gli egiziani sono capaci di far cadere i governi. Quanto può reggere questo? Dipende da quello che faranno i militari. Io credo che ci sia continuamente una ipoteca dell'esercito sul funzionamento del governo. Quindi, da un certo punto di vista, si tratta di un governo a libertà limitata. Per quanto riguarda, quindi, questo dipende molto anche dal fatto se i militari vorranno continuare a interferire nelle scelte politiche come hanno fatto fino adesso, anche per garantire i propri privilegi, oppure se lasceranno veramente spazio all'esercizio di un governo e di una prassi politica civile. Per quanto riguarda l'appoggio popolare, difficile dire se un governo di questo genere abbia veramente un appoggio e un sostegno popolare. Qui entrano in ballo anche i problemi relativi alle difficoltà della democrazia rappresentativa, su cui evidentemente non ci possiamo soffermare in questa sede. Però io credo che dipenderà molto da quello che il governo sarà in grado di fare. Se sarà in grado di migliorare la situazione economica del paese e di far riguadagnare all'Egitto il posto che gli spetta all'interno del mondo arabo e del Medio Oriente, certamente il consenso popolare al governo aumenterà. E le due variabili sono strettamente collegate: da una parte quella dei militari, dall'altra la possibilità effettiva da parte del governo di svolgere il suo mestiere e di sapere appunto governare. Grazie allora al professor Campanini, docente di storia dei paesi islamici Università di Trento. Buona giornata, buon lavoro. Buona giornata a voi, grazie. E noi cambiamo decisamente pagina. Andiamo in Uganda. nel paese dei Grandi Laghi è emergenza Ebola. Un'epidemia, una recrudescenza del virus ha fatto nelle ultime settimane 14 morti, sono 20 le persone infette. A Kagadi, a 260 km a ovest della capitale Kampala, c'è un team di emergenza di MSF, di Medici Senza Frontiere. Peppe D'Andrea è responsabile del team, lo abbiamo raggiunto. Sin dal primo giorno siamo arrivati qui a Kagadi, che è la città epicentro dell'epidemia, e in questo momento io parlo dalla base di Medici Senza Frontiere, che è a poche centinaia di metri dall'ospedale dove stiamo isolando i casi. Qual è la difficoltà maggiore per voi operatori nel lavorare su un virus così letale? La difficoltà maggiore sicuramente è psicologica, nel senso che anche tra di noi, per esempio, non utilizziamo misure, diciamo così, estreme di sicurezza, per cui non ci salutiamo stringendoci la mano, perché il virus si passa attraverso contatto fisico, attraverso contatto con liquidi corporei, per cui alle volte giochiamo su questo fatto che non ci possiamo toccare, però alla fine della giornata, insomma, si sente un po' la pesantezza psicologica di questa situazione. Quando vi muovete sul territorio siete protetti da tute speciali, ci puoi spiegare meglio di che materiale sono fatte e che cosa comporta il loro utilizzo? Sì, ovviamente ci sono diverse aree a seconda del livello di rischio, per cui in questo momento, per esempio, noi stiamo costruendo il centro di trattamento, all'interno del quale le aree sono suddivise in alto rischio e basso rischio, per cui si entra nella zona ad alto rischio solo con delle tute che provvedono una copertura del corpo al 100%. Questo ovviamente è una misura estrema di sicurezza, ma ovviamente gli operatori, la salute degli operatori ovviamente è prioritaria in queste situazioni. Quando il team entra nella zona ad alto rischio, ci sono innanzitutto infermiere e anche operatori di igiene, per cui queste sono le due figure che entrano. La prima figura per ovviamente avere cura dei pazienti, gli operatori di igiene per pulire la struttura. Diciamo che ci sono dei turni delle infermiere che possono durare un'ora ciascuno all'interno del padiglione, diciamo così, dove ci sono tutti i casi sospetti e confermati, per cui con turni di un'ora le infermiere e le operatrici di igiene si danno il cambio. I casi che avete rilevato fino a questo momento erano in zone rurali o anche in zone densamente abitate? Beh, l'epicentro da cui vi parlo, Kagadi, è una zona rurale, è, diciamo così, un paese all'interno di una zona rurale, per cui sì, vengono, diciamo, non sono concentrati da un punto di vista urbanistico in una città. Il virus di Ebola è altissimamente letale e quindi abbiamo chiesto all'operatore di Medici Senza Frontiere quanto è preoccupante questa epidemia che già alcuni anni fa aveva colpito l'Uganda. Sappiamo benissimo che dobbiamo isolare il virus, sappiamo che se il virus non può essere curato, non esistono cure o vaccini, però il virus va solo isolato, per cui in questo momento noi siamo praticamente concentrati nell'isolarlo, e se isolato si può contenere l'epidemia, e questo può comportare un futuro molto positivo. Qual è l'atteggiamento della popolazione verso Ebola? Quando voi andate in un villaggio, quando voi trovate un caso positivo, qual è la reazione dei familiari, ad esempio, della persona colpita? Diciamo che la situazione generale, quando siamo arrivati, abbiamo trovato una popolazione abbastanza preoccupata. Già dopo una settimana, quando hanno visto le misure messe in piedi da Medici Senza Frontiere, la popolazione si sente molto più tranquilla. Già rispondono anche come volontari o cercando di aiutarci per rispondere a combattere il virus. Per quanto riguarda i familiari, ovviamente la situazione è un po' più particolare, perché con i familiari bisogna adottare una comunicazione ad hoc, e per questo motivo abbiamo operatori sociali e psicologi che verranno qui nel giro di due giorni, appunto per aiutare i pazienti e le loro famiglie a capire questo virus. C'è un livello adeguato di consapevolezza? Cioè, la popolazione ugandese nelle zone in cui voi operate e le zone colpite dal virus sanno che cos'è Ebola e sanno che è un virus altissimamente letale? Diciamo che ovviamente non c'è molta conoscenza da parte della popolazione di questo virus, Questo comporta anche il fatto che non si sia capito subito che fosse Ebola, e al momento viene visto come una strana malattia. Ovviamente uno dei nostri compiti sarà quello di, tramite operatori scelti ad hoc, di comunicare con la popolazione i messaggi chiave per fargli intendere innanzitutto che cos'è, innanzitutto di come, che atteggiamento avere riguardo a questa malattia, e soprattutto che chi si può, diciamo così, guarire da questa malattia e si continua a vivere senza ripercussioni. Esiste quindi uno stigma sociale rispetto a Ebola, oppure possiamo dire che, mancando un livello di consapevolezza così alto, in realtà viene forse percepita come un'altra febbre emorragica, come potrebbe essere, che ne so, una dengue o... Beh, questa popolazione, diciamo così, non era, è da pochi giorni, da poche settimane a contatto con questa situazione, per cui diciamo si può parlare di stigma, ma la popolazione va informata, e qui è dove noi lavoreremo tantissimo, perché ovviamente il benestare dei pazienti dipende anche dalla loro dignità, la salute di una persona dipende anche dalla sua dignità, cui Medici Senza Frontiere ha sicuramente focalizzato anche questo aspetto. E infine Pepe D'Andrea di Medici Senza Frontiere dall'Uganda risponde sull'atteggiamento del governo di Kampala. 2 giorni fa è arrivato qui il Ministero della Salute e il ministro è entrato nel nostro circuito insieme a noi, quindi assolutamente piena collaborazione. Ieri tutti i giorni ci sono incontri con i membri del ministero qui a livello locale, e si discute ogni giorno si coordina ogni giorno sulle responsabilità e le misure da adottare, per cui no, definitivamente c'è collaborazione con il governo ugandese. Voi state formando anche personale medico locale? Beh, innanzitutto c'è già personale formato, perché questa non è la prima volta che l'Ebola arriva in Uganda, non qui in questo distretto, però noi abbiamo già da subito contattato personale in altre regioni dell'Uganda che già avevano lavorato su questo tipo di intervento, per cui parliamo al momento già di 12 tra infermieri e operatori per sanitizzare l'acqua che già sono operanti qui a livello locale. E poi inizieremo da oggi e da domani a fare training allo staff locale, diciamo sia a tutto il recruitment che è iniziato da ieri a livello locale. Calcoliamo che circa un centinaio di persone lavoreranno con noi, reclutati qui a livello locale. Ci sarà un training intensivo a tutte le differenti categorie lavorative. Qual è il rischio più grande o qual è il nemico più grande nella battaglia che state combattendo? Il nemico più grande in questo momento può essere, diciamo così, l'accesso o l'isolamento è l'obiettivo principale, per cui qualsiasi causa che può, diciamo così, rompere questo isolamento del virus è il nostro nemico principale, per cui in questo momento combattiamo per creare un sistema impermeabile al 100%, in modo che siamo pienamente in controllo del circuito dei pazienti, quindi siamo sicuri che il virus non può uscire dalla zona di isolamento. E questa è la battaglia combattuta da MSF in Uganda. È tutto per quest'oggi. Non mi resta che ringraziare voi, gentili ascoltatori, per essere stati anche quest'oggi all'ascolto di Nessun Luogo Lontano. Mire Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione vi danno il loro saluto, così come Fabio Cantadori e la parte tecnica. Noi ci risentiamo domani, come sempre. Un saluto da Giampaolo Musumeci.